E beh, io ho avuto un'esperienza un po' insolita, perché sono stato arrestato all'età di 24 anni e sono rimasto in prigione molti anni. Sottoposto a una sorveglianza in prigione, imprigionato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, cioè dai fascisti, e sono rimasto molti anni in prigione. E sono entrato a 24 anni e ne sono uscito a 33. Quindi la mia esperienza è stata prevalentemente carceraria. È stata una resistenza al fascismo, una resistenza passiva in prigione, di cui non mi pento di nulla, sono tuttora soddisfatto del mio comportamento. Ecco. In prigione sotto sorveglianza speciale, dentro a Roma, nella Regina Coeli, ero con Ernesto Rossi e Riccardo Bauer, sono stato molti anni con loro nella stessa cella, sono stato 5 anni a Regina Coeli, poi mi hanno portato nel reclusorio in Civitavecchia, quindi e lì sono rimasto fin quasi alla fine. Alla caduta di Mussolini io ero in Emilia, in un carcere dell'Emilia. E come le dico, è un'esperienza che è costata cara alla mia famiglia, questo sì, perché non era bello avere un proprio ragazzo in un carcere, ma io sono stato molto tranquillo, non mi sono mai lamentato e sono tranquillo su quello che ho fatto.